Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere venuti a questo appuntamento. Siamo pronti con Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e i temi del giorno. Noi, il medico e le medicine. Segni rifatti, allarme in Francia. La lista scaccia pensieri. È solo una pastiglia, oppure una supposta, una compressa o ancora uno sciroppo. Comunque, qualcosa di piccolo ma capace di produrre effetti a volte anche potenti. Il farmaco, se ci pensate, anche questo, qualcosa che assunto alla minima dose utile, permette al nostro organismo di gestire, affrontare e spesso superare un problema di salute. E allora, considerata l'utilità dei farmaci, il nostro rapporto con loro dovrebbe essere, così lo definiscono gli esperti, funzionale. Quando serve lo si assume, naturalmente secondo la prescrizione fornitaci dal medico. E invece c'è chi dei farmaci ha paura, chi li assume in eccesso e quindi ne abusa, c'è anche chi, pur prendendoli nelle dose consigliate con la somministrazione adeguata, si trova a fare i conti con reazioni avverse, effetti indesiderati. Allora, di tutto questo cercheremo di parlare oggi con voi, 824 0024, insieme ai nostri esperti che vi introduco subito. Saluto il professor Giuseppe Remuzzi, che è qua in studio con me, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Puntata tosta questa. E in linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale. Dottor Gargiulo, bentornato anche a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professor Remuzzi, un buongiorno agli ascoltatori. Allora, con il professor Remuzzi esploreremo il mondo complesso dei farmaci, cercheremo di capire come sono cambiati nel tempo, come il mercato ne ha condizionato non solo la qualità ma anche l'offerta e il consumo da parte degli utilizzatori. Metteremo sotto la lente anche alcune categorie di farmaci più utilizzati, nei confronti dei quali tutti noi ci siamo creati un'idea, no? Dai diuretici che sgonfiano, agli psicofarmaci che danno assuefazione, al cortisone che fa ingrassare, alle pillole per la pressione che da molti sono vissute come un irreversibile ingresso nella terza età. Mentre con il dottor Gargiulo cercheremo di analizzare le reazioni dei pazienti di fronte alla prescrizione di un farmaco, perché il medico attento si accorge dalla reazione del suo paziente di molte cose: il livello di accettazione, di preoccupazione, di sospetto, l'eventuale paura. Perché è vero, questo diciamocelo pure, ciascuno di noi sviluppa con i farmaci reazioni diverse. C'è chi non ne vuole proprio sapere. Sono seriamente preoccupata. E poi tutte quelle medicine che prende, è per questo, è per quello. Oh. Io invece non prendo mai medicine, le detesto. Ah, io pure. Un'aspirina di tanto in tanto, fine. Io nemmeno quella, forse ne avrò presa una d'aspirina a 10 anni. Ma quando hai mal di testa come fai? Oh, io non ho mai mal di testa, non so cosa sia il mal di testa. Io sono contro tutte le medicine. E c'è chi la pensa esattamente al contrario e chi con i farmaci ha una relazione molto molto stretta. È aperta. Che fai? C'è sonno? Ti ho capito al volo. Valeriano. Ti ho capito al volo. Sì. Vuoto il sacco? Posso vuotarlo? No! Io lo sapevo che avevi barato, lo sapevo. Abbiamo barato in due. Vado, copro tutto fino al delirio schizzo. No! Dio! Che un genio sei! Che fai? No, mitico, mitico, mi dai 40. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, c'è un'anamnesi pazzesca, questa qua. Questa è da ultimo stadio. Io sono penultimo. No, no. No, ma è dovuto alla birra, è pericolosissimo. Dai, cavolo, non si prendono le medicine così. Perni, ti prego, tienmi compagnia però, eh. Sì, non mi va. Non mi lasciare da sola. No, non prego, ne ho bisogno Perni. Adesso, posso... Prendi qualcosa, dai. Guarda, non ne ho bisogno. Per vecchi tempi. Perni, prendi qualcosa, okay, per okay, favore. Ok. Allora prendo, andrò sul vecchio Serenilla. Ma dai, è superatissimo. No, non è superato. Perché questo si chiama Seralin Retard, cioè cessione graduale di chetazolam nell'arco di 24 ore. Quindi per 24 ore uno è completamente coperto dall'ansia. Voi vi riconoscete, avete cambiato nel tempo anche il vostro rapporto con i farmaci. Chiamateci e scriveteci e diteci anche cosa fate con i vostri bambini, perché vogliamo esplorare anche questa dimensione. Magari eravate bambini curati sempre, no? Con gli antibiotici che ora sistematicamente rifiutate anche quando il pediatra ve li consiglia per i vostri bambini. Allora, intanto chiedo ai miei esperti di aggiungere magari qualche dettaglio che potrebbe fornirci uno spunto di riflessione. Professor Remuzzi. Io penso che è giusto la prima parte di quello che abbiamo sentito. La persona che non ha mai il mal di testa e che non vuol prendere i farmaci. Questo è quello che... Certo, i farmaci sono importanti quando uno è malato. Il problema è che non dobbiamo dare farmaci per piccoli disturbi o farmaci a persone sane. Dottor Gargiulo? Sì, concordo con il professor Remuzzi. Bisogna anche a volte sfatare però un mito, che tante volte le persone aspettano l'estremo, ad esempio del mal di testa, di arrivare all'estremo del dolore per prendere il farmaco. Se il farmaco è indicato, se il medico lo ha consigliato, prendiamolo subito, per tempo. Questo è importante. 824 0024 e messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Potrebbe sembrare un pesce d'aprile l'allarme che arriva dalla Francia, ma la notizia del rischio di rottura di protesi mammarie segnalato dall'Agenzia dei Prodotti Sanitari francesi, ahimè, non è uno scherzo. Le protesi al vaglio degli esperti sono di una nota azienda transalpina e in via cautelativa le autorità francesi hanno predisposto il ritiro dal mercato e consigliato alle donne operate dopo il 2001 di contattare il proprio chirurgo. Anch'io ho contattato il nostro chirurgo preferito, il professor Marco Klinger. Buongiorno, ordinario di chirurgia plastica all'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Professor Klinger, bentornato. Grazie, buongiorno. Professore, si ricorda, girava la storia di un'attrice a cui era scoppiata una teta, anzi una protesi, sì, in aereo. Con battute, eccetera. Sì. Però adesso, a leggere queste notizie, si può dire che la realtà supera la fantasia. Beh, insomma, trovo che da qualche parte ci sia qualcosa di allarmante, nel senso che il... Sicuramente quello a cui fa riferimento le note francesi sono note che nascono seriamente e quindi vuol dire che questa ditta, ma sottolineo in particolare solo questa ditta, non ha fatto le cose a norma, non ha fatto le cose a regola d'arte, ma soprattutto non le ha fatte a norma. Il problema, professor Klinger, qual era di queste protesi? Allora, perché scoppiano? Questo, allora, innanzitutto, per dare un inquadramento generale di 20 secondi, il mercato mondiale è occupato soprattutto da due colossi americani che sono iperseri, danno dei contributi enormi alla ricerca nei loro campi, anche nei campi vicini ai loro, ai chirurghi plastici del mondo, e sono due ditte assolutamente fuori discussione che occupano buona parte del mercato mondiale. Poi esistono un sacco di altre ditte, tra cui un tot di francesi, che hanno, come dire, delle piccolissime fette di mercato, e in questo caso, dopo accurate indagini, accurati esami, domandandosi come mai si rompevano facilmente quelle protesi, è stato notato che il gradiente, cioè in pratica la concentrazione di silicone presente nelle protesi, non era quella giusta per farle mantenere nel tempo. Quindi è una cosa sostanzialmente importante. Cosa rischia la donna a cui si rompe la protesi? Beh, allora le citerò anche il fatto che purtroppo c'è stata un'altra ditta francese che 15 anni fa ha fatto una cosa analoga, sì, e le cui protesi di fatto assorbivano, richiamavano liquidi verso l'interno, quindi si gonfiava la mammella, quindi il risultato che era corretto oggi era troppo grosso domani. Ed è stata messa poi, è stata denunciata, in qualche modo non proprio messa fuori mercato, insomma è stata meno perseguita di quello che avrebbe dovuto, però in qualche modo l'episodio era stato segnalato brutalmente. E questa paziente di oggi nuovamente rischia il fatto che la sua protesi possa autogonfiarsi e quindi possa cedere, possa rompersi, e in qualche modo anche quella guaina che si crea intorno alla protesi, che si chiama capsula, che è buona e positiva quando è sottile e non distorce la mammella, può subire dei danni da questa rottura della protesi. Quindi ci sono dei suggerimenti da dare alle pazienti, se lei permette, Nicoletta. Io l'ho invitato apposta, esatto, professor Klinger. I suggerimenti da dare alle pazienti sono queste qua. Innanzitutto, questo non deve essere un motivo di allarme per tutte quelle milionate di donne al mondo che portano protesi mammarie. Tutte quelle che sono state operate in posti seri, da professionisti seri, mediamente hanno delle protesi certamente ad alto livello. Il risparmio su un intervento di questo tipo non lo si fa spendendo 300-400 euro meno di protesi, non è così che uno deve andare a cercarlo. Però sarebbe corretto in questo momento tornare dal proprio chirurgo, a chiedere al proprio chirurgo che tipo di protesi sono state impiantate, e il proprio chirurgo, se è uno serio, come tutti quanti noi in Italia, la maggior parte di noi in Italia, ha la tua cartella clinica con i bolli delle tue protesi, con il numero delle protesi, il numero di lotto, quando sono state impiantate, e quindi ti sa dire che tipo di protesi sono, perché è così che deve essere. E quindi anche quello che ha fatto la sottosegretaria Martini in qualche modo è stato il tentativo di categorizzare tutto questo problema e di sapere che esiste un registro mondiale. Ecco, ultimo, infatti, problema, Nicoletta, sì, però, ultimissimo problema è quello che in Italia, come in tanti altri posti al mondo, non solamente in Sud America, c'è una discreta, se non grande, quantità di sommerso, ed è lì che è un problema andare a cercare le protesi. Cioè, chi si fa operare nello studio 9 volte su 10 non ha in mano che tipo di protesi sono state impiantate, la gestione è un po' più sportiva, e questo certamente non si può risalire in questo momento a quali protesi sono state messe. tanto quanto invece per noi che abbiamo sempre usato questi due colossi americani, nel momento stesso in cui uno schiocca le dita, la stessa azienda sa tutto. Professor Klinger, allora speriamo che lei faceva riferimento all'anagrafe delle protesi mammarie voluta dal sottosegretario alla salute Francesca Martini, che ricordiamo è approvata, ma insomma deve ancora essere proprio attuata. Certo, certo. È in fase di costruzione, sicuramente questa è un'ottima idea, una garanzia in più per la salute delle donne. Professor Klinger, grazie per queste informazioni. Quindi... Nicoletta, di niente, sono a vostra disposizione, buona giornata a lei. Anche a lei, professor Klinger, grazie, buona giornata. Ancora, arrivederci. Pronto soccorso. Senta, non è che è presente quel caso Vida Vida Capata, vero? No, non è presente. Non lo sa, perché io chiedevo, siccome due mesi fa ho avuto un'ischemia cerebrale, la presenza della Vida Vida K sarebbe deleteria. Sarebbe una tragedia. Senta, non è nemmeno presente glucosio, vero? No, non è presente. No, ecco, non lo sa, perché glielo chiedevo, siccome c'è un tasso di diabete molto alto, anche la briciola di glucosio sarebbe un guaio. Senta, sostanze aggreganti gastriche ci sono? No, non sono presenti. Meno male, non lo sa, perché io ho chiesto, siccome 3 anni fa ci ho avuto una trombosi, la sostanza aggregante gastrica la manderebbe al creatore. E voi come vi comportate con i farmaci che vi vengono prescritti? Che aggettivo descrive meglio il vostro modo di stare di fronte alla ricetta che vi ha appena messo in mano il medico? Fiducioso, dubbioso, critico, pauroso? Vi è capitato di trovarvi in conflitto tra ciò che vi ha prescritto il medico e ciò che la vostra mente, il vostro sesto senso, la vostra volontà vi diceva di fare? Come sono andate le cose? 824-0024, sentiamo Regina che ci chiama da Torino. Buongiorno Regina. Buongiorno. Allora, rispetto a quello che può essere il mio atteggiamento con i medicinali, è critico e pauroso. Quindi ambedue le cose. Cioè, sono una che quando il medico mi dà dei medicinali quasi sempre lascio la ricetta nel cassetto. Ma la cosa che più mi spaventa adesso è che io ho una forma di artrosi deformante e il medicinale che mi viene prescritto è sempre il cortisone. Allora io a questo punto cosa faccio? Per un po' lo prendo e poi smetto, perché intanto gonfio e poi insomma ho paura del cortisone. Ha paura del cortisone. Ho paura. Regina, la sua è una paura... Dalla mia ignoranza sicuramente, però è così. Evidentemente, professor Remuzzi, manca un'informazione, perché molti temono il cortisone come altre classi di farmaci. Ma guardi, per il cortisone e anche per gli altri farmaci, lasciamoci guidare da quello che ha detto prima il dottor Gargiulo. Il punto è, se il medico prescrive un farmaco, il farmaco va preso e va preso anche precocemente. I farmaci non vanno presi se si sta bene o per malattie per cui in realtà non c'è davvero la necessità di un farmaco, un raffreddore, il mal di gola nella maggior parte dei casi guarisce da solo. Questa malattia, probabilmente qui si tratta di un'artrite reumatoide. Allora il cortisone è importante per evitare i dolori, certo ha degli effetti collaterali, quindi qui siamo di fronte a un farmaco estremamente importante per risolvere quantomeno una sintomatologia che può essere anche molto invalidante, ha effetti collaterali importanti, ci sono oggi delle alternative di farmaci nuovissimi che come sempre sono farmaci che possono fare miracoli ma hanno anche importanti effetti collaterali. E allora di nuovo la signora che ha certamente una malattia dovrebbe scegliere un buon medico e poi fidarsi davvero di quel medico, discutere con lui, ma quando sono arrivati a un accordo non lasciare la medicina nel cassetto. Questo per chi è malato è davvero un errore. Dottor Gargiulo, spesso è la mancanza di informazione o una prescrizione messa in mano al paziente che viene presto salutata e accompagnata alla porta. È importante di nuovo tornare a quella relazione tra medico e paziente che può davvero fare la differenza. Sicuramente questa è la prima terapia, la relazione tra medico e paziente, perché dare dei farmaci senza spiegare a cosa servono, come si devono assumere, quando si devono assumere, quali sono anche i rischi legati a questa terapia, significa affidare un prodotto estremamente importante senza il libretto delle istruzioni. lasciare poi che il paziente vada a vedere quello che noi chiamiamo il bugiardino, il foglietto illustrativo, che spesso è piuttosto difficile da interpretare, non rende un buon servizio al farmaco. Quindi il medico deve spendere sicuramente qualche minuto in più per spiegare che cosa sta facendo, creare quell'alleanza che è la cosa migliore per la terapia. Damiano ci chiama da Venezia. Buongiorno a lei, Damiano. Sì, buongiorno, grazie. Allora, io premetto che io sono sempre stato un po' diffidente, preferisco, diciamo, che s'arrangi il mio organismo, almeno per le cose leggere, a risolvere i propri problemi. Sì. Il problema mio sta, diciamo, nel rapporto un po' con mio padre, perché mio padre è sempre stata una persona che non ha mai preso farmaci, perché è sempre stata bene. Successivamente al divorzio con mia madre, degli stati d'ansia gli hanno provocato qualche disturbo, e adesso il dottore gli ha trovato praticamente la pressione alta a seguito di una crisi ipertensiva. Sì. gli ha trovato la pressione molto alta. Adesso mio padre, un po' in balia di questo suo stato d'ansia, che fa? Cerca conforto nella parola di altre persone, e la sua nuova compagna tende a dargli un po' troppi medicinali, a consigliarlo a prendere un po' troppi medicinali di tipo omeopatico o comunque naturale. Però non so se vada bene comunque fare miscugli esagerati di cose omeopatiche. Se una persona prima era, diciamo, completamente priva di farmaci, di colpo fare un miscuglio di farmaci. Insomma, Damiano, lei non è tranquillo. Professor Remuzzi, io so che passando la parola... Intanto, come per tutte le cose, troppi pareri fanno male. Bisogna scegliere un bravo medico e seguire il consiglio di quel medico. Poi bisogna capire se si è malati o se non si è malati. La ipertensione è una malattia anche grave, perché ci possono essere delle complicazioni a carico di tanti organi, ed è una delle malattie per cui, per fortuna, noi abbiamo cure davvero efficaci. Per cui l'ipertensione va curata con farmaci, i farmaci li prescrive il medico. Non facciamoci consigliare da compagne, zie, nonne, cugine, il farmaco che ha fatto bene a mia nonna normalmente non è il modo attraverso cui ci si deve comportare, o alla vicina di casa. E i farmaci omeopatici non contengono nulla, vanno bene per chi non ha nulla, e il farmaco omeopatico è un problema, perché se uno è malato tante volte ritarda la diagnosi. E abbiamo casi drammatici di persone che, rivolgendosi a dottori omeopatici, in realtà arrivano tardi alla diagnosi, quando poi non c'è più nulla da fare. Professor Remuzzi, io vorrei però, prima di dare la parola a tanti nostri ascoltatori che si stanno mettendo in contatto con noi all'800 24 0024, lavorare su alcune parole chiave che possono funzionare da bussola. Ci aiuta a capire cos'è un effetto avverso indesiderato, cosa si intende per effetto collaterale, quando una dose è efficace? Perché, ad esempio, noi prendiamo un farmaco che ci è stato prescritto dal medico, poi soprattutto se abbiamo letto il bugiardino, sentiamo tutta una serie, no, di disagi, di sintomi che abbiamo letto, e ci spaventiamo. Poi sentiamo giustamente la vicina, poi magari il medico ci dice di prenderla tutti i giorni a dose piena, noi dimezziamo perché non si sa mai. Insomma, homo faber fortune sue, ma che cosa si può fare? Ma intanto avere l'idea che i farmaci, se sono efficaci per tanti versi, hanno sempre, quasi sempre tutti, anche degli effetti negativi, effetti collaterali, effetti negativi. Noi diamo il farmaco per risolvere un problema, l'effetto collaterale è quello che noi non vorremmo che succedesse, una manifestazione negativa legata al farmaco. Pensate che ci sono in Lombardia ogni giorno 4 segnalazioni di guai da farmaci, e se venissero segnalati tutti sarebbero molto di più. Negli Stati Uniti arrivano ogni giorno in pronto soccorso 700.000 persone, ogni anno, scusate, in pronto soccorso 700.000 persone per problemi di farmaci. Sono soprattutto anziani, e non sono farmaci strani, farmaci nuovi, sono farmaci importanti. Sono varfarina, per esempio, abbiamo sentito Verdone, che serve per evitare certe manifestazioni di trombosi in chi potrebbe averla, un anticoagulante. Sono insulina, sono farmaci che si utilizzano per il ritmo del cuore, persino l'aspirina, che è il singolo farmaco che ha salvato più vite. Molte persone oggi non muoiono di malattie di cuore, di infarto grazie all'aspirina, può avere effetti negativi anche importanti. Quindi tutti i farmaci hanno effetti negativi, dobbiamo esserne consapevoli. Il bugiardino è un po' complicato, come ha detto il dottor Gargiulo, adesso però l'hanno semplificato. Perché non si fa un bugiardino semplice a misura di paziente, dato che non lo devono leggere i medici? Ci si sta avvicinando. Adesso, se vedete, i bugiardini nuovi una volta erano impossibili, i bugiardini nuovi invece sono fatti con delle domande, sono scritte un po' più in grande, perché tante volte, soprattutto gli anziani, quelli che hanno più bisogno di ricorrere ai farmaci, fanno fatica a leggerlo. Leggerlo è importante, non ci si deve spaventare, perché quando noi vediamo effetti collaterali c'è un problema di normativa, il bugiardino è costretto a riportare tutti gli effetti anche se sono rarissimi, ma quando noi prendiamo un farmaco dobbiamo fare sempre un ragionamento di rischio-beneficio. Quando noi prendiamo un determinato farmaco che ha una incidenza, cioè una frequenza di effetti negativi rarissimi, è chiaro che corriamo il rischio, perché il beneficio che ci aspettiamo è molto importante. Quando si prende un farmaco si fa sempre un'operazione di beneficio-rischio, e guardare il bugiardino, parlare col medico, discutere col medico degli effetti collaterali ci aiuta molto a capire quante probabilità abbiamo. La medicina è una questione di gradi di probabilità. Quanti probabilità abbiamo che questo farmaco ci faccia bene? Dobbiamo però essere consapevoli di eventuali effetti collaterali e riportarli subito al medico, perché se noi li sappiamo, gli effetti collaterali dell'aspirina, ce ne accorgiamo subito e vediamo che succedono dei guai. Torniamo ad affrontare il nostro tema dopo i mercati e il meteo. 824 0024. Essere e benessere. Siamo tornati insieme al dottor Carlo Gargiulo e al professor Giuseppe Remuzzi. Sono arrivati numerosi messaggi riguardo all'omeopatia. Una precisazione per gli ascoltatori che mi dicono: allora, dice che il professor Remuzzi dice che i prodotti omeopatici sono dannosi, ma se avete sentito bene, il professor Remuzzi ha, e ce l'ho qua davanti, specificato che quando si tratta di un problema serio di salute, e questo sono concordi anche i medici che utilizzano l'omeopatia, parlavamo di artrite reumatoide, tante volte non seguire il consiglio del medico, che sicuramente con buon senso vi aiuterà, vi condurrà a fare esami e quindi a prescrivere dei farmaci che sono pensati e studiati per quel problema serio di salute, questo può ritardare la diagnosi. Torneremo a parlare, perché questa non vuole essere una puntata omeopatia contro farmaci, e semmai ne dedicheremo una puntata, ma questo solamente per rispondere ai tanti sms che sono arrivati. Abbiamo Carlo che ci scrive da Milano, ci chiama da Milano. Buongiorno, sì. Carlo. Buongiorno, capita proprio a fagiolo questa trasmissione, perché mi sto recando adesso in farmacia per una fastidiosa coccigodinia, come si dice, o coccigodinia, non lo so. Sì. Io non amo i farmaci invasivi, assolutamente. Sono stato abituato da piccolo a prendere chili di antibiotici quando ancora negli anni 60-70. Sì, ce ne davano a palate, sì. Esatto, e non li ho mai sopportati, perché comunque mi hanno sempre causato problemi allo stomaco, e insomma avevo degli effetti collaterali. E adesso ultimamente, da quando ho cominciato a decidere per me, quando vado dal medico e mi danno dei farmaci invasivi, normalmente non li vado neanche a comprare. Ecco, ma Carlo, perché lei come fa a capire che sono invasivi? E poi coinvolgo anche il dottor Gargiulo, perché sicuramente tra i suoi assistiti ci sarà qualcuno come Carlo che gli dirà: no, dottor Gargiulo, quello è troppo invasivo. Carlo, lei come fa a capirlo? Allora, io non sono medico e non mi arrogo questo diritto, ma questo... però molte volte sono guarito anche senza farmaci, parliamoci chiaro, prendendo una semplice aspirina. Ora, magari sono una persona che così fa delle cose che non devono essere fatte, però moltissime volte io quando accuso delle situazioni così, chiamiamole patologiche, se aspetto 2, 3, 4 giorni normalmente mi vanno a posto da sole. Chiaramente non ho niente di gravissimo. Certo, ritorna al concetto del professor Remuzzi, che diceva i farmaci quando si sta bene non vanno presi. Ma dottor Gargiulo, esatto, sicuramente lei si sarà trovato, no, con un paziente come Carlo, che dice: ma io, insomma, se è invasivo, se è troppo pesante, se è troppo mirato, forse aspetto e prendo l'aspirina. Sicuramente forse sì, però intanto vediamo subito quanta confusione c'è. Carlo dice: io non prendo farmaci, a me basta un'aspirina. Non dimentichiamoci che l'aspirina è un farmaco che ha degli enormi vantaggi, ma presenta dei rischi molto forti per chi ha ad esempio un problema gastrico, una gastrite di cui non si è accorto, un'esofagite da reflusso, cioè dei problemi in cui questo farmaco può dare fastidio. Ecco perché occorre, prima di dare il farmaco, la competenza o del farmacista o del medico, per poter capire se il soggetto può prendere quel tipo di farmaco. Non fidiamoci del fatto che siamo la vicina di casa ce l'ho consigliato perché e quindi è un farmaco leggero, oppure ce lo dà il medico e quindi è un farmaco pesante, tra virgolette. Non è così, i farmaci si inseriscono nei metabolismi del nostro corpo e quindi in ogni caso hanno un effetto che può essere giusto, buono se il farmaco è utilizzato al momento opportuno, ma può essere dannoso se il farmaco è utilizzato male o in dosi eccessive. Altro problema molto grosso è quello delle associazioni di farmaci, soprattutto negli anziani. Molto spesso noi vediamo l'anziano che deve prendere più farmaci e a volte è proprio l'associazione che può creare qualche problema. Allora, il consiglio del medico, come ho detto, è fondamentale per ogni terapia. Per i farmaci da banco non vi fidate della vicina di casa, ma il consiglio del farmacista in aggiunta diventa assolutamente prezioso. Professor Remuzzi, il nostro ascoltatore faceva riferimento agli antibiotici. Ci sono una categoria di farmaci preziosa ma molto discussa, soprattutto dalle mamme, dalle nuove mamme, no? Ci sono veramente delle mamme che dicono: no, io l'antibiotico a mio figlio proprio non glielo do. D'altra parte poi si leggono le notizie sulla resistenza agli antibiotici, insomma il problema è caldo. Vale la regola, vanno dati solo dal medico in casi selezionati e assunti per la dose consigliata, ma sta di fatto che questi antibiotici sono sempre discussi. Sì, ma anche qui quello che si sente dire suggerisce di nuovo una grande confusione. Non si può generalizzare. La storia della medicina ha avuto negli antibiotici uno dei momenti assolutamente fondamentali, perché malattie per cui una volta si moriva, e si moriva di giovane età, si moriva di gastroenteriti per esempio, tantissimi bambini morivano, ma non tantissimi anni fa, 50, 60, 80 anni fa, tante malattie non potevano essere curate che oggi guariscono, e questo è grazie agli antibiotici. Il problema è che gli antibiotici vanno utilizzati quando uno ha una malattia sostenuta da un batterio. Il batterio possibilmente andrebbe identificato quando parliamo di malattie gravi, oppure quando si tratta, fare, vero? Lo si può fare. Il medico in ogni caso riconosce quasi sempre una malattia batterica che necessita dell'antibiotico. L'antibiotico non va dato se non c'è una malattia sostenuta da batteri sensibili a determinati antibiotici, e in generale non funziona nelle malattie dovute a virus. Per esempio il mal di gola dei bambini è quasi sempre un mal di gola sostenuto da virus, per cui l'antibiotico non funziona. Ma anche qui non bisogna essere assoluti, perché ci sono dei casi in cui anche per malattie virali e persino per l'influenza è indicato in un certo momento del decorso l'antibiotico per evitare la sovrapposizione di infezioni batteriche. Quindi, di nuovo, l'antibiotico è un farmaco straordinario, è preziosissimo, come tutti ha effetti collaterali, ma ha salvato e salva tante vite. Va utilizzato quando è appropriato e non va utilizzato se non c'è indicazione. Allora, vorrei rispondere a Nicoletta, che ci scrive da Adria: ho l'osteoporosi e dovrei prendere l'alendronato in pillole, ma ho paura per l'esofago e per il procedimento, stare in piedi, non chinare il capo, eccetera. Così sono 2 anni che non mi curo. Ho letto che uscirà in Italia un nuovo farmaco che necessiterà solo un'iniezione per l'anno, 60 anni, ho avuto una menopausa anticipata per problemi ginecologici. Ho letto il messaggio di Nicoletta perché vorrei parlare anche di questa categoria di farmaci, ma perché di fronte alle paure, hai sentito dire, alle cose che si leggono sul giornale, si sentono per radio e per TV, uno si spaventa e dice: piuttosto che rischiare non mi curo. Professor Remuzzi, e poi andiamo dal dottor Gargiulo. Di nuovo è difficile generalizzare, questa è una categoria di farmaci molto nuova. I primi studi erano estremamente favorevoli e facevano vedere come la densità delle ossa in ammalati di osteoporosi viene migliorata dall'utilizzo di questa categoria di farmaci. Escono sempre più studi adesso che fanno vedere che ci sono anche dei problemi. A un certo punto si è cominciato a vedere che alcune di queste ossa, che sono più dense, sono però anche più fragili, quindi paradossalmente ci sono più fratture. Molto recentemente è stato fatto uno studio ancora più grande che dimostra che alla fine forse conviene prenderli questi farmaci, ma di nuovo dipende dal grado di osteoporosi, dipende dall'età della persona, dipende dai farmaci che assume insieme, dipende da altre terapie concomitanti. Ci vuole per queste categorie di farmaci assolutamente la guida di un bravo medico. Angela ci chiama da Arezzo, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio anticipatamente per la cortesia e l'attenzione. Ecco, volevo dire questo, io assumo per una malattia cronica di tipo demielinizzante da 6 mesi azatioprina accompagnata da pantoprazolo e non ho avuto problemi particolari a livello degli esami del sangue. E, di recente, all'incirca una settimana fa, però mi è comparso una reazione allergica, potrei definirla così, di tipo esantematico, eritematoso, non ponfi, ma sì. Ecco, questo tipo di... Ne ha parlato con il suo medico, Angela? Parlato. E la prima iniziativa è stata quella di prescrivermi un antistaminico, sì. Però non ha avuto un grande risultato perché nel giro di 2 giorni non copriva. Perché siamo passati al cortisone, certo. G per bocca 2 volte al giorno. Però vedo che dopo 7 giorni il fenomeno permane. Io ho continuato a mantenere le terapie base. Cosa devo fare? Quanto devo aspettare? Ecco. È possibile che dopo 6 mesi di assunzione continuativa di un farmaco venga fuori una reazione? Un'altra cosa prima e concludo. L'unica cosa diversa che ho fatto in questi ultimi giorni è stato aggiungere una compressa di vitamina B12 che avevo già preso un paio precedentemente di... non le aveva dato problemi. Dottor Gargiulo, Angela ci solleva un problema. Ci sono delle persone che si confrontano con dei disturbi, magari che seguono a una certa distanza di tempo l'assunzione, quindi dopo 6 mesi, e alla fine da quello che viene fuori da Angela è che non sa che cosa fare, si va a tentativi, l'antistaminico non ha funzionato, allora il cortisone, forse la vitamina B, insomma mi sembra che noi abbiamo bisogno di medici che si prendano cura di noi. Sicuramente. Ecco, non ci diano l'impressione, è vero che non è una scienza esatta, ogni caso fa cosa se, ecco, non ci diano l'impressione di fare dei tentativi. No, ma anche questo è un discorso che a monte bisogna fare con il paziente. Ci sono alcune patologie nelle quali noi abbiamo diversi protocolli terapeutici con farmaci diversi e ovviamente faremo un tentativo per vedere quale sarà il migliore. Il migliore è quello che funziona meglio con il minor numero di effetti collaterali. Quindi ovviamente saranno anche lì dei tentativi. Però se noi con il paziente condividiamo questa ipotesi e quindi ci muoviamo insieme per capire se al tentativo corrisponde un buon risultato o viceversa corrisponde un effetto negativo, questo tranquillizza il paziente che insieme a noi si muove su questo percorso. Un'altra cosa estremamente importante è quella di dire, raccontare al medico tutto quello che si assume, anche magari cosiddetti prodotti naturali, sostanze che possono in qualche modo interferire con i farmaci e nel loro assorbimento e nella loro efficacia, perché in questo modo gli effetti collaterali possono essere attribuiti o al farmaco direttamente o a questo cocktail che tante volte crea dei problemi. Un ultimo consiglio, se il medico prescrive una politerapia, non iniziate tutti i farmaci lo stesso giorno insieme, magari cominciate con un farmaco, poi aggiungete il secondo, poi eventualmente il terzo, scaglionati nel tempo. Questo ci consente di capire se è l'associazione che dà problemi o quale dei farmaci può creare un problema. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo insieme. Abbiamo Paolo da Milano che ci sta aspettando. Torniamo subito. Essere e benessere. E noi siamo tornati subito da Paolo. Buongiorno. Vi ringrazio di avermi chiamato e faccio le mie due considerazioni telegrafiche all'ospite. La prima riguarda i farmaci cosiddetti non di marca. Per un periodo si è parlato, hanno lo stesso principio attivo, utilizzate quelli che costano di meno. Io l'ho fatto, riguardo a una pomata nello specifico. Mi sono reso conto, usando questo farmaco non di marca, di avere poi delle reazioni allergiche che non avevo con l'altro equivalente di marca. Ho visto per curiosità sugli ingredienti, sulla ricetta, c'era lo stesso principio attivo ma in percentuale diversa. Potrebbe essere stato quello a causare questa allergia. Seconda considerazione, più una lamentela. Sono a Milano, ho cambiato diversi medici di famiglia. Una brutta cosa che accade, una brutta abitudine, sono da soli i medici, hanno il loro studio, nella sala di aspetto o magari in una saletta apposita lasciano tutti i certificati medici, per cui il paziente che sale giustamente va subito in modo pratico e comodo a ritirarsi il suo certificato medico, ma può sbirciare o sbagliare tranquillamente e prendere il certificato medico di qualcun altro. Contro proprio la tutela della privacy questo. A Roma avevo un medico che aveva la segretaria e dava lei i certificati. Perché non avviene questo a Milano? Allora, Paolo, il dottor Gargiulo non potrà rispondere perché questo avviene a Milano e non a Roma, magari capita ad Arezzo e non capita a Trieste, ma dottor Gargiulo, istruzioni per l'uso. Ma io rimango a sentire queste cose. Eh? Rimango impressionato a sentire queste cose. Una violazione della privacy come questa è allucinante, parliamoci chiaro. Milano, Roma, ovunque capiti, non esiste che il medico possa lasciare a disposizione dei suoi pazienti questa sorta di self-service ricette, ecco, certificate. Ma voglio dire, io come paziente che mi trovo a ritirare la mia ricetta nella sala d'attesa del medico, dove tutti poi vedono, io posso fare qualche cosa? Posso protestare? Da chi devo andare? Posso far valere il mio diritti, il mio diritto alla privacy? Assolutamente sì. La prima cosa da fare è quella di rivolgersi alla ASL e denunciare il fatto alla, cioè prima parlare con il medico e dirgli chiaramente che quell'abitudine non è un'abitudine consona per uno studio medico. Se il medico non provvede subito, fare una risposta alla ASL comunicando questa cattiva abitudine di questo lasciare a disposizione di tutti i certificati o le ricette. Questo significa tutelarsi in qualche modo la privacy. Anche eventualmente il garante della privacy può essere allertato comunicando il luogo dove avviene questa situazione. Cioè, io mi rendo conto che tante volte serve anche per facilitare un po' l'accesso. Sì, però entro certi limiti, no? No, non è accettabile. Professor Remuzzi, invece io vorrei chiedere a lei farmaci generici e farmaci di marca. Paolo ha notato, leggendo, che c'era una quantità, una dose diversa. Tante volte noi diciamo rivolgetevi al vostro farmacista che saprà consigliarvi, giustamente. Ci sono però tante persone che sono ancora perplesse, no? Sul farmaco generico, quasi prendessero un farmaco di serie B, cosa che invece sembra non sia. Cosa bisogna sapere? Mi dia delle istruzioni pratiche. Quello che bisogna sapere è che perché una ditta possa mettere in commercio un farmaco generico, deve avere dato la dimostrazione che questo farmaco generico è identico in tutto e per tutto al farmaco di marca. Quindi non anche con una dose meno, non è che ne mettono un pochino di la meno. La dose può essere diversa, ma se il farmaco di marca contiene 10 mg di una determinata sostanza in una pillola e il farmaco generico ne contiene 5 mg, noi del farmaco generico prenderemo due pillole e saranno 10 mg. Però quindi questa è una questione tutto. Di formulazione, sì. C'è scritto tutto, il farmacista spiegherà, i farmacisti poi sono molto bravi, spiegano molto volentieri queste cose e tra l'altro in Italia hanno anche l'obbligo di far vedere all'ammalato o alla persona che si rivolge a loro che c'è l'alternativa del generico rispetto al farmaco di marca. L'unica differenza è che il generico costa di meno. Noi abbiamo la fortuna di avere un servizio sanitario nazionale con un generico che provvede per la maggior parte dei problemi della maggior parte delle persone tutti i farmaci che servono. Quindi noi abbiamo questa enorme fortuna in Italia e noi potremo aiutare il Servizio Sanitario Nazionale a spendere meglio i soldi. Vuol dire che certi farmaci costosissimi, per esempio quelli che si utilizzano per i tumori, farmaci cosiddetti biologici, farmaci più nuovi, il Servizio Sanitario Nazionale potrà farsene carico, quanto più tutti noi saremo consapevoli e aiuteremo, e il generico naturalmente è una scelta che va in quella direzione. È assolutamente identico al farmaco di marca. L'ascoltatore che ci ha riproposto il problema di queste sale d'attesa dove si distribuiscono le ricette violando la privacy ha scatenato, devo dire, i vostri messaggi, e vi state dividendo, perché alcuni, come Damiano, dice che lo fanno anche a Roma e a volte dei medici lasciano la porta semiaperta durante le visite, si sente tutto, scandaloso, mentre, per dire, dall'altra parte, e da molte con lui tanti altri, Federico ci scrive: bravi, per tutelare la privacy ci facciamo ore di code, ma fatemi il piacere, un minimo di pragmatismo per favore. Quindi magari questo tema lo affronteremo nuovamente. Dottor Gargiulo, le toccherà tornare. Va bene, con molto piacere. Intanto io vorrei chiudere, professor Remuzzi, questa nostra chiacchierata prima del nostro consiglio del giorno, con due parole sui farmaci che si chiamano orfani. Parliamo di farmaci, no? Per le malattie rare. Io lo faccio con lei perché il Mario Negri di Milano, e il Mario Negri in generale, e soprattutto quello di Bergamo, ha veramente un centro di riferimento molto importante, e quindi chi meglio di lei può raccontarci come stanno andando le cose su questi farmaci che molti dicono, no, non fanno guadagnare le case farmaceutiche, per questo vengono dimenticati. Che cosa c'è di nuovo? Sì, c'è di nuovo che è tutto cambiato. Adesso c'è stata una grande sensibilità in Europa e anche in Italia e negli Stati Uniti per i farmaci per malattie rare. Tenete conto che chi è malato di una malattia rara ha difficoltà ad avere la diagnosi, ha difficoltà a trovare i farmaci. Una volta le case farmaceutiche non investivano, perché investire una quantità enorme di soldi, parliamo di miliardi di dollari per sviluppare un farmaco, miliardi di euro, immaginate quanto vuol dire per partire dal principio attivo ed arrivare al bancone del farmacista. E una volta non investivano, adesso ci sono degli incentivi. Beh. E gli incentivi sono così importanti che adesso le case farmaceutiche fanno a gara per avere anche loro il loro farmaco orfano. Dai. Quindi questa è una bella notizia. Speriamo poi, dal momento che adesso i costi sono impossibili per un farmaco orfano, abbiamo dei trattamenti che costano 300.000 euro per una settimana di trattamento, per esempio. E allora molti di questi farmaci poi si riesce a trovare il modo di utilizzarli per le malattie più comuni, perché si trovano dei meccanismi d'azione molto particolari, e allora questo li renderà anche accessibili a un prezzo che possa essere sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Io direi che è tempo di sentirci il nostro consiglio del giorno, che abbiamo tratto dal libro 50 cose che potete fare oggi per combattere l'insonnia di Wendy Green, ed è dedicato a chi la notte non porta consiglio ma ansia. Lo sentiamo e poi ci salutiamo per bene. Se l'ansia non vi permette di dormire, provate a fare una lista delle cose che dovete fare o di ciò che vi preoccupa e delle possibili soluzioni. Fatelo prima di andare a letto, così di non restare svegli a rimuginare invece di dormire. Scrivere una lista delle cose da fare vi aiuterà a non sentirvi sopraffatti. Seguite sempre un ordine di priorità, in modo da segnare le cose più importanti e più urgenti per prime. Sentirete di avere un maggiore controllo, di essere ben organizzati, e non vi dimenticherete impegni o scadenze. Le liste delle cose da fare funzionano sia sul lavoro sia a casa, perché vi aiutano a essere più efficienti e a sentirvi meno stressati. Inoltre, è meno probabile che la notte rimaniate svegli a elencare mentalmente ciò che dovete fare. Attenzione però, non pensate che per sentirvi meno stressati dovrete esaurire tutti gli impegni della lista, perché inevitabilmente, quando eliminerete le cose fatte, altre incombenze le rimpiazzeranno. Richard Carlson, autore di Don't Sweat the Small Stuff, non state in ansia per le inezie, fa notare che lo scopo della vita non è fare tutto, ma godersi ogni momento, e avvisa: ricordatevi sempre che quando morirete lascerete ancora molte cose da fare. E io ringrazio il dottor Carlo Gargiulo per essere stato con noi. Grazie dottor Gargiulo, è stato un piacere. Grazie, un saluto agli ascoltatori e gli auguri di buona Pasqua. Grazie professor Remuzzi, davvero ancora grazie anche a lei e buona giornata. Grazie, saluti a tutti, saluto il dottor Gargiulo e gli ascoltatori. Allora noi ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Radio 24. La passione si sente.